prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas. Bentrovati da Francesco Galante. Nello spazio settimanale dedicato alla Caritas ritroviamo Giorgio, operatore della Caritas di Padova. Benvenuto Giorgio. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora, è iniziato l'Avvento e come sempre la Caritas propone le iniziative dell'Avvento di fraternità. Quindi parliamone di queste attività. Sì, riparliamo di dell'iniziativa preparata da un po' di mesi dalla Caritas diocesana e dall'ufficio catechistico. Avevamo avuto modo di accennarla già in una puntata precedente. È il sussidio Completare ciò che manca. Questa guida preparata appunto insieme da Caritas e Ufficio Catechistico per aiutare i genitori, i catechisti, gli educatori a preparare un percorso educativo alla carità per i ragazzi dell'iniziazione cristiana. Ieri c'è stato il primo incontro e non abbiamo ancora raccolto feedback. Ci auguriamo insomma che sia andato bene, abbia iniziato bene l'attività nelle parrocchie. Di cosa si tratta? Si tratta di un insieme di proposte per aiutare appunto chi segue i ragazzi dell'iniziazione cristiana a avvicinarli alle grandi domande, ai grandi interrogativi che girano intorno a questa parola misteriosa, la carità, che spesso viene confusa, spesso viene vista in modo riduttivo come qualcosa che si collega all'elemosina, al dare, semplicemente al dare qualche spicciolo. Invece dietro a un grande mistero, che è il mistero per chi crede insomma dell'amore di Dio. E quindi come si fa ad avvicinare i ragazzi a questa parola, questa carità completa, il 100% carità? Allora abbiamo fatto appunto questo libretto, questa guida in cui ci sono tantissime attività, non pensiamo insomma che si debbano far tutte, sono solo degli spunti che i catechisti, gli educatori, i genitori possono prendere per giocare con i ragazzi e iniziare a ragionare su questi temi. Concretamente la guida è fatta su tre temi, su tre grandi domande. La prima è: che cos'è la carità? Che cerca appunto con queste attività, con questi spunti, di entrare un po' più in profondità nel significato della parola stessa. Ripeto, spesso e volentieri la parola carità è confusa con elemosina, ma non finisce lì la carità, non è elemosina, la carità è incontro, ascolto, è relazione. E come si fa a educare alla relazione? Come si fa a educare all'incontro, all'ascolto? Ecco, non ci sono le risposte complete dentro questo libretto, ma ci sono delle tracce da seguire. La prima quindi è: che cos'è la carità? La seconda riguarda questa grande domanda, il perché della carità. Ci possiamo chiedere: perché un bambino dovrebbe essere educato all'amore, alla carità? Che senso ha? Che motivazioni dovrebbe trovare? E allora quelle attività contenute in questo secondo tema, in questa seconda sezione della guida, cercano di esplorare appunto le motivazioni e il senso. E appunto anche qui non ci sono risposte complete, non ci sono ricette, non ci sono regole, sono solo delle tracce, dei percorsi per approfondire, per cominciare appunto a portare i ragazzi al livello di gioco, a livello di attività un po' interattive e anche ludiche, queste domande importanti. L'ultimo tema, l'ultima sezione della guida cerca di entrare un po' di più nel concreto e si domanda il come e il dove la carità. Ok, ho capito che cos'è, ho capito il perché, insomma c'è la motivazione, il senso, ma adesso se voglio realizzare, se voglio scendere in trincea, che cosa faccio, dove lo faccio, come mi muovo? E allora qui appunto una sezione dedicata a attività per scendere nell'operatività di questa sfida dell'amore. Con anche qui non ci sono ricette, ma si cercherà di approfondire il fatto che la carità non ha bisogno di strumenti da supereroi, non ha bisogno di mezzi eccezionali, non ha bisogno di settimane di vacanza per fare grandi campi di lavoro, ma ha bisogno essenzialmente forse di solo tre elementi, tre strumenti, che sono l'io, cioè io posso vivere la carità, posso viverla ora, quindi il tempo presente, e qui, quindi ha bisogno del momento, dello spazio in cui sono adesso. Sicuramente interessante questa guida. Per entrarne in possesso cosa bisogna fare? Si può andare nell'ufficio catechistico in diocesi oppure alla segreteria della Caritas diocesana di Padova in via del Vescovado. Ecco, 29. Quindi in via Vescovado 29 a Padova, in pieno centro storico, esatto. E richiedere questa guida che ha un contributo di 2 euro. Prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas. Passiamo ora a un altro appuntamento, sempre insieme a Giorgio della Caritas diocesana di Padova. Allora, parliamo di Capodanno, ormai non manca molto al Capodanno e c'è la possibilità di fare un Capodanno con la Caritas. Voi l'avete chiamato Capodanno di Rel Azione. Sì, sì, sì, questo è il secondo anno che organizziamo questa iniziativa. Siamo partiti da una proposta che è nata a livello di regionale nel Triveneto, in cui tutte le Caritas dal Trentino al Friuli hanno provato a organizzare questa iniziativa, in cui l'obiettivo era animare, cercare di animare delle realtà che quel giorno, il 31 dicembre, rischierebbero di non aver nessuno che porta un po' di festa all'interno, con il desiderio di giovani volontari di impegnarsi, di dedicare una giornata appunto a fare qualcosa per gli altri. L'anno scorso abbiamo animato, siamo stati in una centinaio, siamo trovati nella parrocchia di San Carlo in Arcella e abbiamo messo insieme un gruppo di volontari, circa una sessantina, con un gruppo di ospiti delle accoglienze invernali. Abbiamo fatto un gran festone e ci siamo divertiti per circa 7 ore, insomma abbiamo finito verso le 2-3 di notte. Quest'anno abbiamo cercato di allargare un po' l'esperienza per cercare di portare questa animazione che abbiamo visto funzionare anche come ritorno, anche come desiderio da parte del territorio, portarla in più realtà, quindi non animare solamente un posto unico, non solo la parrocchia di San Carlo, non solo gli accoglienze invernali, ma anche qualche altra realtà in comunità d'accoglienza, casa di riposo, che stiamo contattando, definendo i dettagli in questi giorni, per appunto portare un po' di festa, incontro, relazione, senza grandi aspettative, senza grandi scenografie, non ci immaginiamo il circo, non vogliamo portare fuori solamente artisti, performanti, no, vogliamo portare un po' di incontro, un po' di contatto, perché quel giorno è un giorno di festa, allora è giusto che tutti abbiano la possibilità di vivere un po' di contatto e di festa. Sì, io so che ci sono numerose iniziative, so che anche le cucine popolari mi pare facciano delle cose proprio apposta, specifiche per questa serata con volontari, quindi è un'iniziativa ulteriore, quella vostra, dove cercate di mettere in contatto i giovani anche con diverse realtà, come dicevate voi. E quindi tante parrocchie anche che dovrebbero essere disponibili per avere qualche idea su dove saranno questi appuntamenti. Se mi permetti una precisazione, sì. Noi non ci rivolgiamo solo, anzi soprattutto, non ci rivolgiamo alle parrocchie o ai gruppi precostituiti, insomma, per noi è un'occasione aperta a tutti, a chiunque, anche chi non ha mai messo il naso dentro un gruppo parrocchiale. Anzi, insomma, ci sono tante possibilità a Padova, non siamo gli unici sicuramente che organizziamo queste iniziative di servizio durante il periodo natalizio, invernale o di vacanze di Natale. Però ci accorgiamo che la Caritas, per la sua storia, per come è fatta, per come è conosciuta nel territorio, è capace di parlare a chi spesso è fuori dai circuiti classici della Chiesa, ecco. Per cui ci si può informare per avere qualche dettaglio in più attraverso il sito internet della Caritas di Padova, che rimanda a un altro microblog in cui ci sono tutti i dettagli messi bene per esteso, in cui ci si può fare un'idea più precisa di che cosa si farà. Comunque, in generale, qualunque sia la disponibilità di chiunque, se ha voglia di partecipare, può dare una mano, sia dal portare qualcosa, sia con il passaparola, sia con il venire 2 ore a dare proprio... una mano a intrattenere, a divertirsi insieme agli altri, esatto, perché insomma sì. Non è che si chiede chissà che, no. Bene, è una bellissima iniziativa, quindi rimando al sito della Caritas diocesana di Padova, uno fa una telefonata, chiede informazioni e poi insomma la maniera per partecipare a queste iniziative sicuramente la si trova. Quindi grazie a Giorgio, grazie a voi, operatore della Caritas diocesana di Padova, alla prossima. Grazie, buona giornata. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.